facciamo un commutatore elettrico e rimando la linea al gruppo elettrogeno. Basta, benito. L'accento, la bevanda torra, sarà una spia, una cosa, una lampadina, per segnare quando torna la luce, quando è bella stabile, allora andiamo in giù. Però ci vuole, fra, ci vuole. Lì in campagna ci vuole, sì. E poi c'è la possibilità tu di metterlo, perché c'hai, non sei come me che sono in un piccolo appartamentino e non va giù due a punirlo, a punirli ti gosse. Mentre tu c'hai il posto, c'hai il garagetto e va bene. Bene, ti rincascio. Però cogliamo un po', costano un pochino lo schifo dei gruppi e quelli cosi cogliano, e ne so approfittare anche cogliano bene. Comunque, non se ne comprende più nulla, avrà davvero tra Luzzi e Eva. Adesso tu considera che io qua pago 100 euro di quota fissa per il coso, per l'acqua del Covina. E mi arrivano e ogni 6 mesi pago 50 euro di quota fissa, no? Perché sono 100 euro l'anno. E mi arrivano i 64 euro di bolletta, so, 64, a volte 55, so, 50 euro di quota fissa e 5 euro di consumo, 6 euro di consumo, 10 euro di consumo. Ma fate 0 di consumo, deve salire, va per 24 ore su 24. Quindi io in genere pago 55, 56, 60 massimo d'estate, quando devo tenere tutto verde per i cani, devo annaffiare, 64 euro un anno mi è arrivata, proprio quello era la cifra più alta e niente, se è più la quota fissa che il consumo che hai. Quella la danno solo nelle campagne, la danno. Lo so, c'ho anche un altro amico che usa quell'acqua lì e paga pochissimo. Sì, ma fra, vai, noi sanno che va lì se è fango. Vabbè, però in campagna per innaffiare queste cose qua, fango. Diciamo che io ho visto che da lui, da questo amico mio, arriva anche bella pulita. Bella pulita è un parolone, bella pulita è un parolone, a chi se tu la poni dentro nel cielo bianco vedi cosa gli seva. Ruggine. No, fango blu più, fango. Da un poco. Non lo so, io un giorno l'ho vista che sembrava bella pulita, però... Se lo stai dicendo vuol dire che lo sai, che ci vedrai. Ma stai scherzando. Come ti ha giovato l'invaglio a lavare la macchina, ci dovevamo provare a lavare la macchina. Fate prima la sala brutta. L'hai imbruttata di più. Ma stai scherzando. Ma perché è proprio acqua grezza. Acqua per annaffiare, va bene, è ottima, tutto quello che vuoi, però... Per utenza niente, poi qua io gli ho messo i filtri, in quel lavoro che ho fatto del coso, del posto, gli ho messo i filtri. Tu filtri non te ne hai messo, fra, tu prova a mettere i filtri della Panoa, quei filtri a carboni, con la roba lì, ai sali, a vedere cosa ne esce fuori. Prova, fai la prova, vedi cosa ne ti divora da leva da Panoa. Me lo immagino, e penso che sia sporca anche quella. Soprattutto dopo che fanno i lavori. Soprattutto dopo che fanno i lavori è sporca, perché io quando chiudono l'acqua poi prendo giù uno sfiato, una pompa, e giù al contatore una pompa e faccio spurgare lì, ma esce proprio fango anche da quando fanno i lavori da Panoa, eh. Io la lascio di lì, poi prendo... ho due rubinetti, uno per lo sfiato e uno che chiude la linea di casa. Ma, fra, credimi che è un disastro, che chissà roba da voi dicono, ma si rompe lo scaldabagno, gli avevo creduto che si infascia lo scaldabagno, e ne entra tutto lo fango dentro casa, ma carità. Così sì. No, io diciamo che quando fanno dei lavori, che so che stanno facendo dei lavori, apro un rubinetto che c'è giù vicino alla, ci ho messo il rubinetto vicino alla, dove c'è il contatore, apro quello, l'urosso, dai che ne c'è tutto l'urosso che arriva pulita, allora la metto in linea. Esatto, come faccio io? Come faccio io? Prendo, apro, io chiudo e apro quell'affare lì. E di fronte c'è tutto un altro coso, però prima l'aria si rabbia nei lati, perché accaduta a me l'aria non mi arriva. Ma assolutamente, ma assolutamente zero. Si arrangiano. Però l'uvango fra, l'uvango è un bel, dopo che fanno i lavori, c'è zero manco 10-15 minuti scende il vango. Lo so, quello già lo so. Anche quando hanno fatto i lavori qua vicino a me, l'hanno fatto, era tutto rosso, era. Anche se lampane di tutto, se lampane 30 di dubbi, tutto il rosso che vè, se un lampane 30, e da voi anni anda, non era fatto nulla, magari trabagliente, compreso. Però purtroppo tocca a noi, ad voi, a stare attenti. Ma se vi do le cose, diventa dei dubbi. Sì, la linea di mare, beh. Ma buffo, sì, è vero, mi viso le cose. Come te le cose di abitrochimica, andiamo a pure le vasche dei depuratori. Esso via, una cernia che vira, cernia, orate, di tutto via. Certo, perché se l'aspiravano fra. Mentre secondo te bacare dai, non vi lo ricordi, avasso, buffonetti. Però melma e coso, quello lì è tutto quanto ruggine. Ma secondo te va buona? No. Vabbè. Depuratori riescono a depurarla l'acqua di mare, a farla dolce. Tutto quello che vuoi, ma se il depuratore riesce a, cioè, a noi l'acqua di mare non è che ci interessi, a noi ci interessa l'acqua che ci sono i bacini, però se dal bacino l'acqua già è sporca, no? Poi va nei depuratori. Ma dal depuratore facciamo il caso che esca anche pulita, esca anche potabile. Ma una volta che anda in rete, potabile con tutta quanta che si arruglia, tutta quanta che si arroba. Ma secondo te, almeno io penso così. Capo, che poi io ho detto depuratori, non sono depuratori, sono disinsalatori che ne sbucano il sale e li toglie all'acqua, gli disinsalatori. Ma quelli che sono l'acqua che viene dai bacini, dai bacini artificiali, quella è acqua piovana, giusto? Non lo so, quelle cosa sono, se sono acqua piovana oppure... È acqua piovana, però una volta che va nei purificatori, questa roba qua, no? Io non so da mettere, quindi non lo so, però il circuito credo che sia quello che fa dal bacino al purificatore, poi dal purificatore va in condotta. Ma se dal purificatore esce anche potabile, no? Facciamo che esca potabile, una volta che entra in condotta e tu pensa che da rubiti ginzo va in occa, ma tu cos'è lui che fa di se va ad andare via a casa anche che vanita e paccaritai. In strada, in la strada si contaveggia. Dai, va bene, fra un attimino dammi che devo prendere la cura che sto facendo la notte, un attimino dentro subito. Io? Ma se non lo so bene le elettrici che avremmo. Cosa? Ma se non lo so bene le linee elettriche che abbiamo. Magari ci sono. Oh, io via. Aspetta che. Ah, ecco qua, ho abbassato quella cosa. Magari ci sono. Oh, io via. Dai. tanto arrivi una ditta esterna, dobbiamo tagliare gli alberi che vanno sulla linea elettrica, si accavallano i cavi, no, che in campagna è un guaio. Dove passano i cavi, se non tagli ricchi di calcio e taluti burro, come eravamo noi, mi ricordo quando ero ragazzo, era tutto bella, i cavi elettrici passavano dove c'erano gli alberi alti, quelli di eucaliptus, non so. A dai cantai pure in italiano, ma fanno danneggiare il coso, la corrente, le gave, per non spostarli e metterli in un altro posto. Perché quella linea ormai è fatta, quella linea ormai è fatta, tagliano gli alberi, vabbè, già è un buono, però, anche la linea elettrica, ogni tanto qua manca la luce perché nella cabina, i trasformatori, le cose, sono guaiati, e a me l'alimentatore me l'ha bruciato il risvalto di corrente, chissà cosa è arrivato, c'era l'auto e dove era deboli e me l'ha bruciato comunque, ma come dai, quello che mi interessa a me sono le utenze domestiche, frigo e quelle robe lì sono delicate, poi l'alimentatore già si aggiusta, però lo frigo una volta che fa il suo difetto, se loro sono, si accorgono che uno sguardo elettrico, non te ne accontani. No, non te ne accontani, no. Purtroppo esce burro, andava che lo vede, ne si inabitta il sguardo elettrico. E a me mi ha bruciato in giro di poco, mi ha bruciato lui alimentatori e al computer man, mi ha bruciato. A palla ci ho buttato lo stabilizzatore di corrente. Dove l'hai preso? Da internet l'avevo comprato, ma da un bel, l'avevo in oca attaccato alle radio, l'avevo. E l'hai ci ho buttato io, stava. Quanti kilowatt? Quanti? 2 kilowatt? Mi sembra. È buono. E io in Capannone ne ho 2 da 3 kilowatt, però mi sembra che se vieni a travaglio e... Ce li abbiamo due stabilizzatori grossi, ma non me li posso pulire a casa. Ma non c'è bisogno, noi costano assai. Ce n'era uno che lo stava vendendo, questo Mario De Belli, no, Mario, questo qua, no, De Belli, seguito... Vabbè. Salvatore, non lo so, 3 kW, lui ha tanto 30 io. Ecco. Sei grosso, sì, sei grosso già costa. No, io ho preso, guarda, in un monitor, in una cosa, a una parte mi segna 2,30, 2,32, sale e scende, no? E alla parte fissa d'ingresso, me la fissa sempre da 120, non va. Di meno sì, ma di più no. 2,20. 2,20 volevo dire. Scusa. Sì. In uscita c'hai l'entrata 2,30, 2,35 e in uscita è 2,20. Esatto. In uscita 2,20. Ma di sicuro funziona. Poi se non funziona, peggio baretto. Sono cose che puoi utilizzare con per esempio frigoriferi moderni, roba del genere. Se tu pili io un pozzetto di 10, 15 anni, 20 anni, quelli lì allo spunto volevano corrente, cosa vuoi dire? Non se ne comprende più nulla, è tutto quanto di vita, sempre veloce a biglia, sempre attento ai danni che ti fanno gli altri, sempre. Vabbè. Fra, io chiudo che domani mattina si lavora e niente. questa sera chiudo le trasmissioni e ci risentiamo domani. Se vuoi entrare domani sera, io già sono dopo le 6:30, le 7 già sono in radio, quindi va bene così, per oggi va bene così, dai. Alle prossime quattro chiacchiere. Buonanotte a te, buonanotte al tuo correa familiare e buonanotte anche a chi, se c'è qualcuno che sta facendo del radioascolto qua a 27.105, anche se sono discorsi un po' noiosi, ma stasera era questo. Vai Franco, di nuovo con la buonanotte, chiudo e non riprendo. Ciao ciao. Ehi, ciao, dai, buonanotte a te Correa, ce la ascoltiamo domani, dai, non è un problema. Ciao, capito. Ciao, ciao.